giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Gli alberi grandi fanno più ombra che frutto. Anonimo. Buona domenica, bentornati nel giardino di Radio 24 che oggi riempiremo di piccoli frutti, quelli che medici e nutrizionisti decantano per le antocianine e le molecole della lunga vita che contengono, quelli che possiamo permetterci in città perché si coltivano molto bene, viste le dimensioni contenute, anche in vaso. Alcuni facilissimi sono adatti anche a chi vuole cominciare adesso a coltivare il suo piccolo frutteto. Del resto, il periodo difficile, da cui forse stiamo uscendo, come certifica Coldiretti, ha provocato in Italia un boom di orti sul balcone, complice l'isolamento, il maggior tempo a disposizione e anche un ritrovato desiderio di riavvicinarci alla natura, in particolare alle piante. Non solo di questo parleremo oggi, ma per ora prepariamoci a coltivare da noi su terrazzi e ballatoi more, lamponi, mirtilli. Come fare? Ce lo spiega chi queste piante le produce nel suo vivaio piemontese di Dogliani, Cuneo. Sto parlando di Dennis Barroero di Dennis Botanic Collection. Bentornato al Giardino Segreto. Buongiorno innanzitutto. Sì, in merito a piccoli frutti la scelta è abbastanza ampia, nel senso che ci sono sia i classici piccoli frutti, partendo dal lampone rosso, piuttosto che il mirtillo classico americano e le more, ma poi, che hanno le stesse esigenze, ci sono anche dei piccoli frutti un po' più particolari, quali ad esempio il lampone giallo, il lampone nero, i mirtilli a frutto rosa, i mirtilli siberiani, i lamponi fragola ad esempio, questi piccoli frutti qua. Se qualcuno si presentasse al suo vivaio o si fosse presentato alle mostre mercato che non ci sono state questa primavera chiedendo consigli per un piccolo frutto adatto a chi non ha esperienza di giardinaggio, cosa gli avrebbe consigliato? Allora, diciamo che il vantaggio dei piccoli frutti è un po' quello che appunto, date le dimensioni contenute rispetto a tante altre piante, c'è la possibilità appunto di coltivare in vaso e avere una buona resa sia in vaso come ovviamente anche in piena terra. E la scelta qui è rivolta proprio a quelli che sono i gusti del consumatore. Come dicevo prima, ci sono i classici lamponi rossi, noi in questo caso lavoriamo con varietà rifiorenti che quindi fanno un doppio ciclo di fioritura e un doppio ciclo anche di produzione, quindi si hanno i frutti sia nel corso dell'estate però che arrivano anche fino all'autunno, quindi c'è un doppio ciclo di produzione e questo per quanto riguarda il consumatore che ha piacere di avere un lampone un po' più classico, ma che hanno anche le stesse esigenze, fatto di esposizione e cura. Sono anche ad esempio il lampone quello a frutto giallo e quello a frutto nero piuttosto che il lampone fragola. I vasi come devono essere grandi per avere un raccolto che ci dia una certa soddisfazione? Le piante vengono coltivate in vasi qua da noi di 18-20 centimetri di diametro. Per avere un raccolto discreto noi consigliamo di spostarle in un vaso che sia circa un 30 centimetri di diametro, dove la pianta ha già una buona quantità di terra e riesce già a fornire una buona resa anche in termini di frutti. Quindi i lamponi sono, diciamo, i piccoli frutti più facili da coltivare? Il lampone e anche la mora sono, diciamo, i due un po' più semplici. C'è poi il mirtillo, che non è che sia più difficile, però ha bisogno di qualche accortezza in più. In primis, ad esempio, è il terreno a pH acido. Sono infatti della famiglia delle ricacee e quindi hanno questo fabbisogno di terreno a pH acido. Quindi è fondamentale nel trapianto non andare ad utilizzare un classico terriccio che si può utilizzare per tutte le altre piante, bensì andare ad utilizzare un terriccio specifico a pH acido per piante acidofile. Anche l'esposizione sul mirtillo americano sarebbe consigliata una mezz'ora, quindi solo una mezza giornata di sole. Beh, il terriccio acido certo non è difficile da reperire, lo troviamo davvero dappertutto, per cui per i nostri vasi ci assicuriamo quello. Ma per chi ha un giardino? Se uno ha un giardino è un po' più complicato, ma nel senso che dipende sempre dalla zona del cliente, perché ci sono ad esempio zone montane, io vedo qua da me ad esempio zone vicino alle montagne cuneesi, dove il pH del terreno è già di suo acido. In zone invece tipo la mia nelle Langhe, dove abbiamo questi terreni calcarei che sono tutt'altro tranne che acide, diventa un po' più complicata la coltivazione in piena terra, perché si può sicuramente andare a fare la buca di trapianto e andare a inserire nutrire direttamente solo terra acida, però purtroppo con le piogge e col corso del tempo il pH tende di nuovo a variare e quindi andrebbe sempre riportato del terreno acido per questo punto, come dicevamo prima, per quanto riguarda il mirtillo, per avere una condizione favorevole per lo sviluppo della pianta. In vaso invece, essendo contenuto all'interno di un vaso, il pH del terriccio varia molto meno e quindi si riescono ad avere altri risultati rispetto alla coltivazione in pieno campo. Ecco, allora il caso dei mirtilli è l'unico che avvantaggia chi ha un terrazzo o un balcone e coltiva in vaso, perché ci può mettere il terriccio acido, mentre chi ha un giardino ha qualche problema in più. C'è un'eccezione però che è quella del mirtillo siberiano. Infatti il mirtillo siberiano viene definito così volgarmente mirtillo siberiano, ma in realtà non appartiene alla famiglia delle ericacee come gli altri mirtilli, ma è bensì una lonicera. Questa famiglia appunto non ha questa esigenza di un pH acido, quindi può essere coltivato anche in un terriccio, cioè può essere utilizzato nel vaso un terriccio normale che si utilizza per le classiche piante da frutta. Altra accortezza però da mantenere sul mirtillo siberiano: va coltivato a doppio esemplare, perché si viene definita impollinazione incrociata, quindi è preferibile andare ad acquistare due esemplari di varietà diverse per permettere l'impollinazione e ottenere quindi frutti. Allora, chi ha un giardino scelga il mirtillo siberiano in doppio esemplare, ma tanto non c'è problema perché lo spazio ce l'ha. Chi invece coltiva in vaso può scegliere anche tutti gli altri tipi di mirtillo, ricordandosi il terriccio acido e naturalmente anche il concime per acidofile. Assolutamente, sì. Peraltro il mio sogno è coltivare mirtilli perché tutti ne parlano benissimo. Ogni visita medica mi raccomandano i mirtilli, per esempio dall'oculista, perché fanno bene. Certo, sono frutti molto ricchi di antociani e appunto sono frutti che poi, oltre al consumo fresco, possono essere impiegati anche per confetture. Io vedo anche alle mostre mercato i piccoli frutti in generale, mirtilli, lamponi, sono quelli che vanno per la tarla maggiore e sono frutti che vanno bene per, diciamo, un po' tutte le età, quindi dai bambini agli adulti. Allora, ricapitolando, lamponi e more al sole, mirtilli meglio la mezz'ombra, 3-4 ore di sole, ci ha detto. Sì, l'ideale sarebbe il sole del mattino, quello meno forte, l'ideale appunto un'ombra parziale del pomeriggio, ma questo a parte per la pianta, più che altro per mantenere sempre fresco alla base della pianta, quindi l'apparato radicale. Eccola, questa sciocca felicità, con le sue finestre bianche spalancate sull'orto. Sergei Esinian. Abbiamo parlato tra l'altro di mirtilli e sulle piante acidofile ci soffermiamo un attimo, perché dopo la puntata dedicata ad azalee e camellie sono arrivate al giardino segreto @radio24.it delle domande sulle malattie che possono colpire queste piante acidofile e naturalmente sui rimedi. Su questo ho interpellato colei che ci aveva dato le dritte per far durare anno dopo anno l'azalea che spesso a maggio arriva in regalo alle mamme. È Laura Bassi, agronoma, docente alla scuola agraria del Parco di Monza, la quale dopo 50 anni tra le piante ha deciso di condividere la sua esperienza attraverso sfruttalagronoma.it, che trovate su Facebook, Instagram e anche in rete come blog. Sentiamo. Allora, sulle acidofile in generale c'è il problema della clorosi, che è quella che più di solito colpisce queste piante e si manifesta con ingiallimento delle foglie. Però si può ovviare a questo se non si vuole raccogliere l'acqua piovana, per esempio, utilizzando ogni anno delle concimazioni con solfato di ferro che acidifica il terreno e fornisce il ferro alla pianta, che è quello che non riesce ad assorbire quando il pH si innalza e che provoca questo ingiallimento nelle foglie che viene chiamato clorosi ferrica. Sulle azalee invece è possibile avere degli attacchi di tingidi che di solito rendono la superficie della foglia tutta completamente punteggiata, perché sono degli insetti che pungono le foglie e succhiano la linfa che c'è all'interno della foglia della pianta. Quindi questo è un possibile parassita che si può trovare sulle azalee. E dunque il rimedio purtroppo è uno solo: utilizzare dei prodotti a base di piretro o di piretroidi, meglio ancora, perché il piretro è vero biologico come trattamento, però non è selettivo e quindi colpisce anche gli insetti utili. Quindi sarebbe meglio usare in questo caso un prodotto chimico a base di piretroidi di sintesi, che sono un pochino più selettivi. ovviamente sempre avendo l'accortezza di non fare i trattamenti quando l'azalea è in piena fioritura, perché è visitata dalle api e dagli insetti impollinatori. Che è sempre una meraviglia avere e vedere sui nostri balconi, sui nostri terrazzi. Laura Bassi, stiamo parlando di malattie delle piante, con Sfrutta l'agronoma, e allora io l'agronoma non la posso non sfruttare, anche attraverso una domanda che è arrivata al giardino segreto @radio24.it di Renata, che ha un bellissimo terrazzo milanese che definisce come una giungla e che è la gioia di suo figlio, però a quanto pare lo segue anche lei, e ha ultimamente un problema dovuto alla comparsa di limacce, un problema che non riesce a risolvere. Ma le limacce innanzitutto cosa sono? Allora, le limacce sono delle lumache che non hanno il guscio, di solito sono bruttine a vedersi, di vari colori, ce ne sono alcune marroncine, alcune arancioni. È strano che sia nel terrazzo, però forse se le portate con qualche pianta acquistata, con del terriccio acquistato. Sono delle divoratrici di foglie, soprattutto se sono tenere, e quindi nel terrazzo, ma anche nei giardini, negli orti, fanno veramente molti danni. Se sono nel terrazzo, purtroppo non abbiamo degli antagonisti, per esempio le lucertole si mangiano le uova delle limacce e quindi possono dare un aiuto a contenerle. Quindi io in questo caso, visto che è un terrazzo, le consiglierei di utilizzare del fosfato di ferro, che è un prodotto atossico, quindi non dà problemi né con le persone né con gli animali, da mettere sul terreno, sono dei granellini azzurrini, da mettere sul terreno intorno alle piante dove di solito le limacce si presentano. Questo è il sistema migliore per eliminarle. C'è sempre qualcos'altro da fare. Un giardiniere dovrebbe avere 9 volte più vite di un gatto. Vita Sackville-West. Ci sentiamo tra un attimo. Vi chiederemo se, e nel caso come, è cambiato il vostro rapporto con le piante durante il periodo di lockdown. E insieme vi regaleremo un giardiniere virtuale. Promo 24. Riprogettare i processi, digitalizzare la supply chain o adottare sistemi di business intelligence prima dell'emergenza sanitaria non sembrava urgente, ma ora è vincolante per il futuro delle aziende. Sorma, gruppo Centropaghe, che da 40 anni informatizza aziende manifatturiere multisettore e internazionali, realizza progetti di innovazione e offre soluzioni custom di MES, logistica di magazzino, Salesforce Automation, fatturazione elettronica, business intelligence e analytics. Il software SI5 ERP di Sorma coniuga funzionalità potenti con la tecnologia e la digitalizzazione. Con la nuova versione web del software SI5 ERP di Sorma, gruppo Centropaghe, i dati sono accessibili da remoto H24. Visita sorma.com, ERP e Digitech per aziende sfidanti. Il giardino segreto. Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide. Anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti. Umberto Eco. E cosa c'è di meglio che utilizzare il computer per avvicinarci alla natura, alle piante in particolare, e oltretutto collaborando in prima persona per comprendere come sta cambiando e come è cambiato durante il periodo di lockdown la nostra percezione e il nostro rapporto con i vegetali. Da più segnali esiste, se non la certezza, il forte sospetto che il periodo di isolamento abbia contribuito a far rinascere il desiderio del giardino a cui tutti siamo destinati e che abbiamo in molti casi cominciato a creare in casa anche solo attraverso balconi fioriti. Per confermare o meno questo cambiamento, Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico, ha ideato un sondaggio dal titolo Natura Interiore che troviamo sulla piattaforma Antosart Green Tool, progetto seguito dalla ricercatrice Enea Patrizia Menegoni. Sì, è una percezione che abbiamo avuto un po' tutti. Il contatto fisico col mondo è cambiato. E il contatto fisico con la natura, soprattutto per chi vive in città, è diventato uno dei fattori limitanti più grandi, a mio avviso. Abbiamo sentito la mancanza della natura, abbiamo sentito la mancanza degli spazi verdi, abbiamo sentito la mancanza delle piante e questo forse ha fatto scattare qualcosa. Abbiamo aperto gli occhi, no? Si parla di plant blindness, forse in molti hanno aperto gli occhi su questi esseri viventi che ci circondano e che non sono solo bellissimi e fondamentali, ma seguire i quali ci può fare del bene, insomma. Assolutamente, penso che questa situazione abbia rappresentato una grande occasione per molti di noi per entrare in ascolto, oltre che avere forse un tempo più dilatato per affrontare una quotidianità magari più variegata, con la possibilità di leggere, di studiare, di capire meglio fenomeni e meccanismi. Le piante sono, diciamo, uno degli spazi maggiormente utilizzati come conforto in questo periodo. Abbiamo provato ad indagare nelle nostre comunità di amici e di colleghi ricercatori per capire quanto le persone avessero bisogno e realmente mettessero in pratica, diciamo, l'attenzione alle piante, coltivandole, entrando in contatto diretto, riservando a loro attenzioni che forse nella quotidianità frettolosa non vengono normalmente, diciamo, dedicate. Ed è comparso, diciamo, l'idea che c'era una grande comunità urbana che improvvisamente ha cominciato ad occuparsi di piante, balconi fioriti, orti che compaiono anche in balconi di pochi metri quadri, un'attenzione totalmente nuova ad un mondo che ci circonda normalmente. E visto che le piante non possono parlare e non possono dirci se ultimamente hanno ricevuto più attenzione e cura dagli umani, lo chiediamo direttamente alla nostra specie, anzi lo chiedete attraverso un questionario che si trova su internet con alcune domande che indagano il nostro eventuale nuovo rapporto con i vegetali, è così? Sì, abbiamo pensato che era interessante anche dal punto di vista della ricerca avviare un'indagine per capire meglio, diciamo, intanto se ci fosse un cambiamento in atto sia nella percezione che nella misura del nostro rapporto con le piante, e all'interno di questo cominciare a speculare, a capire meglio i meccanismi che normalmente ci legano a questo mondo apparentemente così distante, ma in realtà poi quotidianamente così vicino a noi. E dal quale dipendiamo completamente. E dal quale dipendiamo completamente in modo molto spesso inconsapevole. L'atto, diciamo, l'atto più banale, più semplice del nostro essere viventi, quello di respirare, è un atto che ci lega in modo indissolubile alle piante. Non potremmo respirare senza l'elemento di scarto del metabolismo vegetale che è l'ossigeno. Eppure quest'atto così potente, il primo respiro, l'ultimo respiro, anche, diciamo, metaforicamente così importante nella nostra esistenza, per la maggior parte delle persone non sembra così fortemente collegato al mondo vegetale, così indissolubilmente legato al mondo vegetale. Vediamo se finalmente ce ne stiamo rendendo conto. Invitiamo chi ci ascolta a partecipare a questo questionario di Enea, che si trova in rete, peraltro su una piattaforma che è in qualche modo un regalo, perché si tratta di un giardiniere virtuale, Anthosar Green Tool, un nome difficilissimo. Perché scegliete questi nomi così difficili? Infatti, diciamo, fortunatamente i giornalisti, il vostro mondo ci ha aiutato a tradurlo in una, diciamo, più facile accettazione, che è il giardiniere virtuale. Anthosart perché in realtà era un po' una sintesi di un percorso di studi scientifici ed umanistici intorno al mondo delle piante che, come dire, rende artistico l'atto della fioritura. Ma al di là di questo, l'Anthosart Green Tool è veramente una cassetta degli attrezzi per chi intenda conoscere meglio il mondo delle piante e utilizzare queste conoscenze per progettare nel senso più profondo del termine, gettare avanti qualsiasi progetto. È un po' l'anima della nostra esistenza, della nostra vita, progettare giardini o aree verdi urbane in senso più ampio. È un atto fortemente rappresentativo delle comunità che abitano questi spazi. Il progetto non è dunque semplicemente un foglio di carta o un file con dei disegni e delle fantasticherie, ma è una visione del mondo la propria visione del mondo come individui nel proprio giardino privato o come comunità all'interno dei giardini delle città, ed è una rappresentazione del proprio modo di vedere il mondo. È una progettazione molto particolare però, perché non utilizza mattoni inerti, ma utilizza materia viva, e quindi è una progettazione speciale che richiede una grandissima conoscenza, ed è importante che sia una conoscenza profonda che permetta a chi realizza, progetta o cura giardini di sentirsi parte di qualcosa di molto più profondamente intimo, che è il rapporto con la natura e con le piante. Possiamo andare anche nel filosofico parlando di vegetali, questo assolutamente, ma restando sul pratico, questo tool consente appunto di scegliere le piante più adatte alle nostre esigenze, alla nostra esposizione, piante che non richiedano troppa manutenzione, troppa acqua, piante della flora italiana. Tra l'altro è anche uno strumento usato per cosiddetti criteri ambientali minimi adesso, vero? Sì, questo strumento è stato inserito nella revisione dei criteri ambientali minimi e dunque è stato suggerito dal Ministero dell'Ambiente come uno strumento utile per chi realizza opere. Senta, tornando poi al questionario che si può compilare appunto sempre attraverso Antosar Green Tool, c'è tempo fino al 31 di luglio. Poi i risultati come saranno utilizzati? Qual è poi l'obiettivo? Sì. Allora, intanto questo questionario si chiama Natura interiore, percezioni e sensazioni del rapporto con il verde urbano in quarantena. I dati che emergeranno da questo studio ci permetteranno intanto di capire in questa condizione particolare legata al Covid che cosa è successo, cioè come abbiamo utilizzato questo tempo in questo ambito specifico, diciamo nel rapporto uomo-natura, come abbiamo modificato la nostra visione del mondo. I dati verranno resi noti attraverso articoli scientifici, ma anche attraverso la comunicazione più generale che noi curiamo da decenni, soprattutto riguardo al mondo delle piante, che è l'oggetto principale delle nostre ricerche e studi. C'è tempo fino al 31 luglio, Patrizia Menegoni, ricercatrice di Enea. Prima di salutarla le faccio una delle domande che voi ponete attraverso questo sondaggio. C'è una pianta legata ai tuoi ricordi? Se sì, quale? Certo che c'è una pianta legata ai miei ricordi. Ecco, la mia pianta dei ricordi è una pianta di quando ero molto molto piccola ed è un enorme fico presente nell'aia dei miei nonni. Ed era una pianta per me grandissima, con queste foglie molto rugose, polverose, questo odore che non dimenticherò mai, dolce, mieloso ma anche asprigno, questa abbondanza di frutti e questa generosità enorme che permetteva a me, bambina piccola, di salire con tranquillità sui suoi rami lisci ed entrare in contatto. Solo molto più tardi nella mia vita ho scoperto che il suo mondo è molto più grande di quello che anche nel mio percorso di studi scientifici ho potuto apprezzare, perché in realtà tutte le piante portano un valore aggiunto enorme. Moltissimi artisti si sono accorti di loro, le hanno rappresentate, ne hanno parlato. Le piante sono uno spazio in cui la cultura e la scienza si fondano, trovano e decodificano nuovi linguaggi e si incontrano. E questo è il ricordo di Patrizia Menegoni, ricercatrice di Enea. Aspettiamo anche quelli di chi sta ascoltando Radio 24, Antosar Green Tool. Grazie per essere stata al Giardino Segreto. Grazie tantissime anche a voi, e aspettiamo veramente con grande attesa tutte le vostre impressioni e i ricordi e le vostre valutazioni sul mondo vegetale. Grazie ancora. Non siamo poi tanto diversi, nasciamo per essere amici, qui dove io chiamo i capelli e dove tuoi piedi ho radici. Grazie per essere stati in giardino con me anche oggi. Vi aspetto domenica prossima alle 15:30, oppure vi ascoltate quando volete in podcast. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.